stessa, a tempo che giungete, vedrete la voi stessa, il conte e la mia sposa, di propria mala cosa, toccar'io mi farò, toccar'io mi farò, toccar'io mi farò. Guarda dopo te passo, qua non ma me passo, come potria farsi? Di famosa la colpa non serve, se mi dico se l'ordinato mi lo posso fare e se poter l'amo penso per l'amo ma se madama il vuole Sofia, ma come va? Ma dama Sofia, ma come va? Grazie, grazie.